Ad alta voce. Anna Maria Guarnieri legge Cime tempestose di Emily Bronte. Traduzione di Margherita Giacobino. Una notte, quando tutti erano ormai a letto, sentì Heathcliff scendere le scale e uscire dalla porta principale. Non lo sentì rientrare e la mattina dopo scoprì che era ancora fuori. Eravamo in aprile allora. Il tempo era dolce e caldo, l'erba verde per il sole e per le piogge primaverili, e i due meli nani vicino al muro di cinta erano in piena fioritura. Dopo colazione, Catherine insistette perché portassi fuori una sedia e mi sedessi col mio lavoro sotto gli abeti, e indusse Ayrton, che era perfettamente guarito dopo l'incidente, a zappare e sistemare il suo piccolo giardino. Mi stavo comodamente godendo quella fragranza primaverile nell'aria, quando la mia padroncina, che era corsa giù vicino al cancello in cerca di piantine di primule, tornò carica solo a metà e ci informò che il signor Heathcliff stava arrivando. «E mi ha parlato», aggiunse con un'espressione perplessa. «Che cosa ti ha detto?» chiese Ayrton. «Mi ha detto di andarmene più in fretta che potevo», rispose lei. Ma aveva un aspetto così diverso dal solito che mi sono fermata un momento a guardarlo. «Diverso come?» domandai. «Direi che era quasi raggiante e allegro. No, non quasi. Molto eccitato e fuori di sé. E felice», rispose. «Si vede che passeggiare di notte lo diverte», osservai con noncuranza. In realtà ero sorpresa quanto lei e ansiosa di verificare la sua affermazione, perché siccome vedere il padrone tutto contento sarebbe stato uno spettacolo raro, rientrai in casa inventando una scusa. Heathcliff era in piedi sulla porta aperta, pallido e tremante, però in effetti aveva uno strano scintillio di gioia negli occhi che cambiava l'espressione di tutta la sua faccia. «Vuole fare colazione?» dissi. «Deve avere fame dopo essere stato in giro tutta la notte». Volevo scoprire dove era stato, ma non mi piaceva chiederglielo apertamente. «No, non ho appetito», rispose voltando la testa e parlandomi in tono piuttosto sprezzante, come se intuisse che stavo cercando di scoprire la ragione del suo buon umore. «Ha avuto buone notizie, signor Heathcliff?» «La vedo stranamente inquieto. E da dove dovrebbero arrivarmi le buone notizie?» disse. «Sono irrequieto per la fame, ma sembra proprio che io non debba mangiare». «Il suo pranzo è qui», risposi. «Perché non mangia?» «Non lo voglio adesso», brontolò impetuosamente. «Aspetterò fino all'ora di cena. E, Nelly, una volta per tutte, ti chiedo di togliermi di torno Ayrton e quell'altra. Non desidero essere disturbato da nessuno. Voglio questa stanza tutta per me». Quel pomeriggio non uscì dalla sala e nessuno turbò la sua solitudine finché alle 8, sebbene non fossi stata chiamata, ritenni opportuno portargli una candela e la sua cena. Era appoggiato al davanzale di una finestra aperta, ma non guardava fuori, bensì verso l'interno buio. Il fuoco si era consumato fino alla cenere. La stanza era piena dell'aria umida e tiepida di quella sera nuvolosa. C'era un tale silenzio che si poteva sentire non solo il mormorio del torrente giù verso Gimmerton, ma anche il suo gorgogliare sui ciottoli e fra le grosse rocce che l'acqua non copriva. Mi lasciai sfuggire un'esclamazione di disappunto alla vista del fuoco spento e cominciai a chiudere le finestre una dopo l'altra finché arrivai alla sua. «Devo chiudere anche questa?» Mentre parlavo, la candela gli illuminò il volto. «Oh, signor Lockwood, non posso dirle che spavento mi fece quella visione di un attimo, quegli occhi neri e profondi, quel sorriso e quel pallore spettrale. Mi sembrò che non fosse il signor Heathcliff, ma uno spirito. Nel mio terrore lasciai che la candela si inclinasse verso il muro e rimasi al buio. «Sì, chiudila», rispose lui con la voce che conoscevo bene. «Ma guarda quanto sei maldestra. Perché hai tenuto la candela orizzontale? Sbrigati a portarne un'altra. Mi precipitai fuori, in preda a un panico ingiustificato, e dissi a Joseph: il padrone vuole che tu gli porti una candela e che riaccenda il fuoco. Non osavo rientrare in quel momento. Joseph raccolse della brace in una paletta e andò di là, ma la riportò immediatamente indietro, reggendo con l'altra mano il vassoio della cena, e spiegò che il signor Heathcliff stava andando a letto e che non voleva nulla da mangiare fino alla mattina seguente. Subito dopo lo sentimmo salire le scale. Non si diresse verso la stanza che occupava di solito, ma verso quella col letto a pannelli. Lì la finestra, come ho già detto, è larga abbastanza da permettere a chiunque di passarci, e pensai che avesse in mente un'altra escursione notturna di cui preferiva non metterci al corrente. «È uno spirito dannato o un vampiro?» mi chiesi. Avevo letto dell'esistenza di quegli orribili demoni incarnati. Poi però riflettei sul fatto che io l'avevo curato da piccolo, lo avevo visto diventare un adolescente, lo avevo avuto sotto gli occhi per quasi tutta la vita. Era proprio insensato e assurdo lasciarmi prendere da quella sensazione di orrore. L'alba mi riportò al buon senso. Non appena fu abbastanza chiaro per vederci, mi alzai e andai in giardino ad accertarmi che non ci fossero impronte di piedi sotto la sua finestra. Non ce n'erano. È rimasto a casa, pensai, e oggi starà bene. Preparai la colazione per tutti, come al solito, ma dissi a Ayrton e a Catherine di mangiare prima che il padrone scendesse, visto che tardava. Vollero fare colazione fuori, sotto gli alberi, e io sistemai un tavolino per farli contenti. Quando rientrai, trovai il signor Heathcliff a pian terreno. Lui e Joseph stavano discutendo di questioni di lavoro. Lui impartì istruzioni chiare e dettagliate, ma parlava in fretta e voltava continuamente la testa da una parte e dall'altra, e aveva quella stessa espressione eccitata ancora più evidente. Finito di parlare con Joseph, uscì di casa, percorse lentamente il sentiero del giardino e sparì oltre il cancello. Tornò dopo la mezzanotte e, invece di andare a letto, si chiuse nella stanza a pian terreno. Sentii il passo del signor Heathcliff misurare incessantemente il pavimento, e spesso il silenzio veniva rotto da un sospiro profondo, simile a un gemito. A volte mormorava anche parole distinte. La sola che potei cogliere fu il nome di Catherine, insieme a una folle esclamazione di amore o di dolore, pronunciata come si farebbe con una persona presente, con voce bassa e implorante, e che veniva dal profondo dell'anima. Non avevo il coraggio di entrare direttamente nella stanza, ma volevo distoglierlo dalla sua fantasticheria. Perciò me la presi col fuoco in cucina, lo smossi e cominciai a grattare via la cenere. Questo lo fece arrivare più in fretta di quanto mi aspettassi. Aprì immediatamente la porta e disse: «Nelly, vieni qui. È mattina? Vieni con il lume». «Stanno battendo le 4», risposi. «Le serve una candela per andare di sopra. Avrebbe potuto accenderne una a questo fuoco». «No, non voglio andare di sopra», disse. «Vieni e accendi il fuoco per me e fa quel che c'è da fare qui». «Devo riattizzare i carboni prima di potergliene portare», risposi, e andai a prendere una sedia e il soffietto. Nel frattempo lui vagò avanti e indietro in uno stato prossimo alla disperazione. I suoi pesanti sospiri si succedevano così velocemente che non c'era tempo tra l'uno e l'altro per un respiro normale. «Quando sarà giorno manderò a chiamare Green», disse. «Voglio fargli qualche domanda di carattere legale, finché riesco a concentrarmi su questi argomenti e ad agire razionalmente. Non ho ancora fatto testamento e non riesco a decidere come disporre della mia proprietà. Vorrei poterla cancellare dalla faccia della terra». «Non dica queste cose, signor Heathcliff», mi intromisi. «Lasci stare il testamento per ora. Ancora tanto tempo per pentirsi di tutte le sue ingiustizie. Non mi sarei mai aspettata che avesse i nervi così scossi, ma in questo momento lo sono, e la colpa è tutta sua, o quasi. Il modo in cui ha passato questi 3 ultimi giorni avrebbe fatto crollare chiunque. Deve mangiare qualcosa e riposare. Se si guarda allo specchio, vedrà quanto ne ha bisogno. Non è colpa mia se non riesco a mangiare o a riposare, mi disse. Ti assicuro che non c'è nulla di premeditato. Lo farò non appena potrò. Ma sarebbe come chiedere a un uomo che sta lottando contro l'acqua di riposarsi quando è a una bracciata dalla riva. Prima devo raggiungerla e poi mi riposerò. Bene, lasciamo stare il signor Green. Ma in quanto a pentirmi delle mie ingiustizie, non ne ho mai commesse e non mi pento di niente. Sono troppo felice, eppure non lo sono abbastanza. La gioia della mia anima uccide il mio corpo, ma non soddisfa se stessa. Felice, padrone, esclamai. Che strana felicità! Se mi ascoltasse senza arrabbiarsi, potrei darle dei consigli che la renderebbero più felice. Di che si tratta? Chiese. Dimmeli. Lei sa bene, signor Heathcliff, dissi, che dall'età di 13 anni fa una vita da egoista, non da cristiano. Può essere che abbia dimenticato gli insegnamenti dei libri sacri e che non abbia tempo di ritrovarli adesso. Che male le farebbe mandare a chiamare qualcuno, un prete di una chiesa qualunque, non importa quale, che glieli spieghi e che le faccia capire quanto si è allontanato da quei precetti e quanto è poco degno del paradiso, a meno che non cambi prima di morire. Non sono arrabbiato, Nelly. Anzi, ti sono grato, disse, perché mi fai ricordare di dirti in quale modo desidero essere sotterrato. Voglio essere portato al cimitero di sera. Se volete, tu e Ayrton potete accompagnarmi. E fa bene attenzione che il becchino segua le mie istruzioni riguardo alle 2 bare. Non voglio preti né preghiere. Ti ho già detto che ho quasi raggiunto il mio paradiso e quello degli altri per me non ha valore e non mi interessa. E supponiamo che si ostini a digiunare e muoia in questo modo e che rifiutino di seppellirla in terra consacrata? Dissi scandalizzata dalla sua malvagia indifferenza. Questo le piacerebbe? Non lo faranno, rispose. Ma se succede, tu devi farmi spostare di nascosto. E se non lo fai, ti accorgerai per esperienza che i morti non se ne vanno mai del tutto. Non appena sentì muoversi gli altri membri della famiglia, si ritirò nel suo covo e io respirai più liberamente. Ma nel pomeriggio, mentre Joseph e Ayrton erano al lavoro, venne di nuovo in cucina e con uno sguardo folle mi chiese di andare a sedermi in sala. Voleva qualcuno vicino. Non accettai, dicendogli chiaramente che le sue strane parole e i suoi modi mi spaventavano e che non avevo né il coraggio né la voglia di restare sola con lui. «Ma allora mi credi un demonio?» disse con quella sua risata sinistra. «Qualcosa di troppo orribile per vivere nella casa di gente per bene». Poi, rivolgendosi a Catherine, che era presente e che al suo arrivo si era nascosta dietro di me, aggiunse con un ghigno: «Vuoi venire tu, piccola? Non ti farò del male. No, eh? Per te ormai sono peggio del diavolo. Beh, almeno qualcuno che non mi evita c'è. Per Dio, lei è implacabile. Maledizione, è indicibile. È troppo per un essere di carne e di sangue. È troppo perfino per me». Non chiese più a nessuno di fargli compagnia. Al crepuscolo andò in camera sua. Per tutta la notte, fino a mattina inoltrata, lo sentimmo gemere e parlare da solo. Ayrton era ansioso di entrare, ma io gli dissi di andare a prendere il dottor Kenneth. Era lui che doveva andare dentro e visitarlo. Quando venne il dottore, gli chiesi di farci entrare e cercai di aprire la porta, ma scoprii che era chiusa a chiave. Heathcliff ci mandò al diavolo. Stava meglio e voleva essere lasciato solo. Così il dottore andò via. Quella sera c'era brutto tempo. Piove a dirotto fino all'alba. Mentre facevo il mio giro mattutino attorno alla casa, vidi che la finestra del padrone era spalancata e la pioggia entrava in camera. Non può essere a letto, pensai. Questa pioggia l'avrebbe inzuppato. Deve essersi alzato e uscito. Ma è inutile perdere tempo. Mi farò coraggio e andrò a vedere. Riuscii ad entrare con un'altra chiave e subito corsi ad aprire i pannelli del letto, perché nella stanza non c'era nessuno. Li feci scorrere velocemente e guardai dentro. Il signor Heathcliff era lì, disteso supino. I suoi occhi incontrarono i miei con uno sguardo così feroce e penetrante che trasalii e poi sembrò sorridere. Non potevo credere che fosse morto, ma aveva il volto e il collo bagnati di pioggia e le lenzuola erano fradicie e lui era perfettamente immobile. La finestra, sbattendo avanti e indietro, gli aveva graffiato la mano che stava appoggiata sul davanzale. Dalla pelle escoriata non gocciolava sangue e quando la toccai col dito non ebbi più dubbi. Era morto e già rigido. Chiusi la finestra. Gli scostai i lunghi capelli neri dalla fronte. Cercai di chiudergli gli occhi per spegnere, se possibile, quello spaventoso sguardo di esultanza che li faceva sembrare vivi prima che qualcun altro lo vedesse. Non volevano chiudersi. Sembravano beffarsi dei miei tentativi e anche le sue labbra semiaperte e i suoi denti bianchi e aguzzi ridevano di me. Colta da un altro attacco di vigliaccheria, gridai a Joseph di venire. Joseph arrivò trascinando i piedi e fece un urlo, ma rifiutò di toccarlo. «Il diavolo si è preso la sua anima!» esclamò. «Per conto mio può prendersi anche la sua carcassa! Che faccia cattiva! Sta sorridendo alla morte!» E quel vecchio peccatore imitò il suo ghigno. Pensai che avesse intenzione di mettersi a fare le capriole attorno al letto. Invece si ricompose rapidamente. Si inginocchiò, alzò le mani al cielo e rese grazie a Dio, perché il legittimo proprietario e la sua antica stirpe erano tornati in possesso dei loro diritti. Quel terribile evento mi lasciò come stordita. Inevitabilmente la mia memoria tornava indietro nel tempo, con una specie di tristezza opprimente. Ma il solo a soffrire davvero fu il povero Ayrton, che era anche quello che aveva subito più torti. Vegliò il cadavere per tutta la notte, piangendo lacrime amare e sincere. Gli tenne la mano, baciò quella faccia selvaggia e sarcastica che gli altri non osavano neppure guardare e lamentò la sua perdita con quel forte dolore che sorge spontaneo da un cuore generoso, anche quando è indurito come l'acciaio temprato. Kenneth fu incerto nel diagnosticare di quale male il padrone fosse morto. Io, per timore di possibili guai, non rivelai che non aveva mandato giù nulla per 4 giorni. E d'altra parte, sono convinta che il suo digiuno non fosse volontario. Era la conseguenza della sua misteriosa malattia, non la causa. Lo seppellimmo come aveva voluto, con grande scandalo della gente del posto. Il corteo funebre era composto esclusivamente da Ayrton, da me, dal becchino e dai 6 uomini che portavano la bara. I 6 uomini se ne andarono dopo averla deposta nella fossa. Noi restammo finché non fu ricoperta. Ayrton, con le lacrime che gli scorrevano sulla faccia, scavò delle zolle d'erba e le depose lui stesso sulla terra bruna. Ora la tomba è liscia e verdeggiante, come gli altri tumuli intorno, e io spero che il suo occupante dorma altrettanto profondamente. Ma la gente qui, se glielo chiedeste, giurerebbe sulla Bibbia che lui se ne va in giro. Alcuni dicono di averlo incontrato vicino alla chiesa, o nella brughiera, o perfino dentro questa casa. Stupide storie, dirà lei, signor Lockwood, e lo dico anch'io. Eppure, quel vecchio accanto al fuoco in cucina sostiene di averne visti 2 affacciati alla finestra della sua camera ogni notte di pioggia da quando è morto lui. E a me è successa una cosa strana circa un mese fa. Una sera stavo andando alla Grange. Era una sera scura che minacciava temporale. E proprio alla svolta di cime tempestose incontrai un ragazzino con una pecora e due agnelli. Stava piangendo disperato e io immaginai che gli agnelli facessero i capricci e non si lasciassero guidare. «Che cosa c'è, ometto?» gli chiesi. «C'è Heathcliff con una donna laggiù, sotto la rupe», singhiozzò. «E io non ho il coraggio di passargli vicino». Io non vidi nulla, ma sia lui sia le pecore si rifiutarono di andare avanti. Probabilmente era stato lui stesso a crearsi quei fantasmi, ripensando, mentre attraversava tutto solo la brughiera, alle sciocchezze che aveva sentito ripetere dai suoi genitori e dagli amici. Eppure, adesso non mi piace rimanere fuori solo al buio e non mi piace restare solo in questa tetra casa. Non posso farci niente e sarò contenta quando Catherine e Ayrton la lasceranno e si trasferiranno alla Grange. «Allora andranno alla Grange?» dissi. «Sì», rispose la signora Dean, «non appena si saranno sposati, e questo accadrà a Capodanno. E dopo chi vivrà qui?» «Beh, Joseph si occuperà della casa e forse un ragazzo gli terrà compagnia. Vivranno in cucina e le altre stanze verranno chiuse». «A disposizione di tutti i fantasmi che vorranno abitarci», osservai. «No, signor Lockwood», disse Nelly scuotendo la testa. «Io credo che i morti siano in pace, ma non è giusto parlare di loro con leggerezza». In quel momento si sentì aprire il cancello del giardino. I due, che erano andati a passeggiare, stavano tornando. «Loro non hanno paura di niente», borbottai, guardandoli dalla finestra mentre si avvicinavano. «Insieme potrebbero sfidare Satana e tutte le sue legioni». Quando arrivarono sui gradini d'ingresso e si fermarono per dare un ultimo sguardo alla luna, o più esattamente per guardarsi al suo chiarore, fui spinto a sfuggirli di nuovo e ficcando in mano alla signora Dean un piccolo ricordo, senza fare caso alle sue proteste per la mia scortesia, mi dileguai passando per la cucina mentre loro aprivano la porta principale. La mia passeggiata verso casa si allungò fino alla chiesa. Quando fui sotto le sue mura, mi accorsi che il degrado aveva fatto progressi, anche se erano passati solo 7 mesi. Molte finestre mostravano buchi neri senza vetri e qua e là le tegole sporgevano oltre la linea del tetto, pronte a essere gradualmente divelte dai temporali dell'autunno imminente. Cercai e presto trovai le 3 lapidi sul pendio vicino alla brughiera, quella di mezzo, grigia e a metà sepolta dall'erica, quella di Edgar Linton, ornata solo di erba e di muschio, quella di Heathcliff, ancora nuda. Indugiai attorno alle tombe, sotto quel cielo benevolo. Guardai le farfalle notturne volteggiare fra le eriche e le campanule, ascoltai il respiro leggero del vento fra l'erba e mi chiesi chi avrebbe mai potuto immaginare sonni inquieti per coloro che dormivano in quella terra quieta. Anna Maria Guarnieri ha letto Cime tempestose di Emily Bronte, traduzione di Margherita Giacobino. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Regia di Jonathan Zenti. Per riascoltare il programma, radio3.rai.it. Per scaricarlo, raiplayradio.it.